dopo passo cerchi ancora le risposte. Al di là di quegli specchi vedo solo vie opposte. Imprigiono le emozioni, dividi i miei pensieri e sensazioni. Ricerco me stesso e trovo nuove soluzioni. Ombre distanti, voci fuori dal coro così imponenti. Ora voglio solo ritrovarti, tu intrappolata tra mille inganni, mille amori così distanti. Al di là di questi specchi siamo.